Ora, uno solo è il legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Responsorio breve. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Io ho detto, mio Dio, fammi grazia. Ho peccato contro di te. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Risanami, Signore, ho peccato contro di te. Antifona al Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, Egli mi ha guardata. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Intercessioni. Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia. Attira ogni essere a te, Signore. Attira ogni essere a te, Signore. Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli. Attira ogni essere a te, Signore. Dona la tua grazia al nostro vescovo e a tutti i vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito. Attira ogni essere a te, Signore. A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata. Attira ogni essere a te, Signore. Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura. Attira ogni essere a te, Signore. Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti. Attira ogni essere a te, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Orazione. O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedizione finale. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.